Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Dalla formazione professionale alle infrastrutture alla transizione digitale. Sono questi i tre punti su cui investire per dare nuova linfa al settore dell'autotrasporto, grazie ai fondi che arriveranno in Italia dall'Unione Europea. Queste le priorità evidenziate da un documento per il Recovery Fund realizzato da Conftrasporto e reso noto nei giorni scorsi. Secondo quanto calcolato dal centro studi dell'associazione, l'emergenza sanitaria ha causato la perdita di un quarto del traffico merci nel primo semestre dell'anno. Per ripartire è necessario prevedere quindi una serie di interventi di medio e lungo termine per potenziare le infrastrutture, favorire trasporti più efficienti e sostenibili e accrescere la formazione e le competenze digitali dei giovani. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un mondo che segue ovviamente con molta attenzione il dibattito in questo momento fortissimo in Italia sull'utilizzo dei fondi del Recovery Fund, appunto, quindi sul piano italiano per poter utilizzare e gestire al meglio i fondi che arrivano dall'Europa, un piano che dovrebbe contenere indicazioni specifiche anche per i trasporti e la logistica, così come sostiene con forza l'associazione Conftrasporto, che all'interno di Confcommercio rappresenta appunto l'anima legata ai trasporti e la logistica. E noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Paolo Ge, vicepresidente di Confcommercio e presidente di Conftrasporto. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, dicevamo, grande dibattito sull'utilizzo delle risorse europee, tra poco tra l'altro si aprirà un altro dibattito, quello sulla legge di bilancio, e quindi anche lì probabilmente cercheremo di capire quale sarà l'impatto sul mondo dei trasporti e della logistica, ma rimaniamo al Recovery Fund e al conseguente Recovery Plan che in questo momento è allo studio del governo. Conftrasporto ha elaborato un vero e proprio manifesto su quelle che dovrebbero essere le priorità per il settore dei trasporti e della logistica. Allora, cominciamo con il capire quali sono queste priorità. Beh, innanzitutto da un ragionamento di fondo che è spesso tenuto poco in considerazione. Senza la logistica e i trasporti, un'economia non è in grado di essere competitiva. Lo dico perché vedo riprendere molto spesso dai giornali dichiarazioni di leader di organizzazioni che rappresentano il mondo della produzione, che giustamente evidenziano l'importanza di questa loro realtà. E io faccio un piccolo ragionamento. Senza il trasporto e la logistica, le merci prodotte e trasformate da queste aziende, da questo sistema, rischiano di restare sui piazzali o nei magazzini. Quindi senza un trasporto e una logistica funzionante e funzionale, anche il mondo produttivo rischia di produrre per nulla. Quindi noi siamo partiti e partiamo da questo ragionamento. E la logistica, in un momento economico nel quale siamo passati dagli stock ai flussi, si regge sul fattore tempo. Meno tempo una merce impiega ad arrivare nelle condizioni desiderate al luogo di consegna e più è competitiva e rende più competitivo il paese. Ma allora qual è lo strumento che consente di realizzare questo? Beh, le infrastrutture, che debbono trovare una vocazione anche dal punto di vista del rispetto ambientale, e noi sappiamo bene che infrastrutture funzionanti che consentono alle merci e gli automezzi di muoversi, di collegarsi con il mare, di collegarsi con il ferro, danno anche una risposta alle esigenze ambientali che l'intero paese sente. Ecco, noi arriviamo da una fase sicuramente complicata per il mondo infrastrutturale italiano, abbiamo le tensioni per l'alta velocità, abbiamo avuto i problemi di Genova, ma abbiamo anche visto come l'Italia, nel caso di Genova, sappia reagire sul fronte delle infrastrutture e non impiega 10, 20, 30 anni per realizzare piccole opere, ma pochi mesi per realizzarne di grandi. Quali dovrebbero essere in quest'ottica le priorità infrastrutturali del nostro paese? Innanzitutto noi abbiamo la necessità di collegare, oltre al paese, al proprio interno, soprattutto l'Italia con l'Europa. E questo pone il problema grandissimo dell'attraversamento dell'arco alpino. È chiaro che se fin tanto che il Brenner non sarà realizzato, gli austriaci continueranno a introdurre momenti di ostacolo alla libertà di circolazione delle merci, è evidente che il sistema italiano subisce delle negatività. Se il governo italiano, nonostante l'abbia dichiarato 3 anni fa, purtroppo noi viviamo molto di annunci, tarda e non riesce a completare una piattaforma che sia in grado di dare esattamente quella che è la situazione dei manufatti, delle strade, per consentire per esempio i trasporti eccezionali che noi stiamo regalando agli altri paesi, ovviamente, soprattutto dal punto di vista della produzione, perché se si produce poi i trasporti eccezionali non vengono effettuati perché le autorizzazioni, il sistema è complicato, evidentemente la domanda si indirizza verso altri paesi. Se noi non andiamo a risolvere il problema della Ronda di Genova, il problema della TAV, il problema del ponte sullo stretto, e quindi non rendiamo l'Italia e i luoghi d'Italia più accessibili, non possiamo pensare di essere competitivi in Europa. Noi rischiamo pian piano di perdere le posizioni. Ecco, quindi secondo la vostra visione ci sono solo infrastrutture tra le priorità del recovery plan, oppure ci dovrebbero essere anche altri aspetti che riguardano il mondo dei trasporti e della logistica? Beh, assolutamente ce ne sono altre, come dimenticare i temi della formazione e del lavoro. Noi come Contrasporto peraltro abbiamo in essere un rapporto di collaborazione molto stretto con l'Università Cattolica di Milano, dove abbiamo ottenuto dei corsi di formazione per i giovani. Noi sosteniamo e continuiamo a indicare come possibilità di occupazione per i giovani, la professione di autista, che diventa sempre più qualificata, che diventa sempre meno pesante, perché le nuove organizzazioni del mondo del trasporto e della logistica non sono più quelle di una volta, di 30 anni fa, per cui un autista usciva a lunedì mattina e magari rientrava dopo un mese. Cioè, noi oggi abbiamo una situazione completamente diversa. 30.000 posti di lavoro come autisti. Allora dobbiamo puntare su una formazione che riesca ad avvicinare il mondo giovanile, che riesca a coinvolgere coloro che vogliono invece affrontare il tema dal punto di vista della gestione della logistica, quindi manager attraverso master universitari dedicati alla logistica, che sono proprio quelli che noi facciamo come Contrasporto in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano, perché la logistica cresce, se cresce la cultura nel mondo del trasporto, se cresce la convinzione che il trasporto deve sempre di più rispondere alla questione ambientale con una sostituzione veloce del parco circolante, andando anche a cambiare le regole europee che sono vecchie, che non vanno a favorire questo ricambio, insieme alle infrastrutture noi creeremo le condizioni perché l'Italia possa partecipare all'economia europea a pieno titolo. La sostituzione del parco circolante è una cosa fondamentale. Certo, una strada che tra l'altro il governo sta percorrendo proprio in queste settimane, partito dal 1 ottobre. Infatti la procedura per la domanda per il primo ciclo di investimenti, poi ce ne sarà un'altra nel prossimo anno, ovviamente seguiremo con attenzione l'evoluzione di questo progetto per sapere anche che tipo di impatto ha avuto su questa sostituzione del parco veicolare. Termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Paolo Ugè, presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Vi ricordo anche l'appuntamento con Hashtag Autotrasporto di Andrea Ferro lunedì prossimo alle 13:30, sempre su Radio 24. Per ora un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.